Buongiorno, grazie, vi ringrazio per la vostra cortesia e il vostro savoir-faire, siete bravissime, vi ascolto quasi tutti i giorni. Complimenti alle due fate turchine. Ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole. Cristina, e che carina che leggerite veramente. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, vi adoro, siete bravissime. Vuole che diventiamo le sue zie? Come Claudio su Twitter? No, le mie nipotine. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nicoletta, tu che stai cercando casa per le tue ragazze, distratta dal mal di gola, ti sei lasciata scappare delle grandissime occasioni di cui ho letto in questi giorni. Possibile che con tutte le puntate che abbiamo fatto sul mattone sia potuto succedere questo? In primo luogo, Poi non è detto che sia successo. Allora, in primo luogo, la villa alle Hawaii di Magnum PI, dove si svolgevano le avventure dell'investigatore più famoso degli anni Ottanta. 15 milioni di dollari. Senti, Deborah, io ti devo dire che vado euro, più forse. Vicino. Perché sto puntando alla casa di Gwyneth Paltrow e del marito. Sai che anche lui è uno famoso, Sì, è anche carino. È la voce dei Coldplay. Yes. Li conosci? Sì. Vabbè, sì. Non so. Io li conosco tramite le mie figlie, ma si trasferiranno definitivamente a Los Angeles e metteranno in vendita la propria casa per soli 7 milioni di sterline. Guarda che se hai messo gli occhi su questa casa ma non hai tutti i soldi a tua disposizione, vuoi accendere un mutuo, ci sono buone notizie, però a guardare un po' i dettagli mi sa che non ti riguardano. Cosa ne sai tu? Spiegami, poi vediamo. Allora, il governo ha messo sul piatto 2 miliardi di euro per l'erogazione di mutui con tassi agevolati per giovani coppie, famiglie con soggetti disabili e famiglie numerose. Chiediamo subito un commento ad un esperto. Certo, ce l'abbiamo qua in studio con noi, siamo molto felici. Anna Vizzeri dell'ufficio economico dell'ufficio studi economico giuridici di Altro Consumo, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Commento telegrafico su questa iniziativa che poi racconteremo nel dettaglio. Sì, allora mi sento di dire meglio poco che niente. Arrivano finalmente dei soldi a disposizione delle famiglie per far fronte al credit crunch che sicuramente negli ultimi due anni è stato molto pesante in Italia. È vero che la domanda di mutui si è ridotta perché comunque le famiglie hanno difficoltà economiche, quindi è anche più difficile mettere da parte dei soldi per far fronte all'acquisto della casa. D'altra parte le banche in questo periodo hanno decisamente irrigidito le loro politiche di concessione del credito, per cui anche persone che normalmente sarebbero affidabili finanziariamente fanno fatica ad accedere. Questi 2 miliardi di euro certo non risolveranno totalmente il problema, però possono essere un punto di partenza. Quindi finiranno, io pensavo fossero tanti, invece Anna Vizzari ha detto che insomma sono addirittura pochi. Sì, abbiamo fatto due conti ieri per capire su per giù quante famiglie potranno rientrare, poi lo diremo. I requisiti lo sappiamo, sono molto stringenti, ma Deborah, tutti gli altri, io non ho il cuore di lasciarli fuori dalla nostra puntata. E allora sai che facciamo noi oggi? Non parleremo solo di questa misura straordinaria. Parleremo con Anna Vizzari di mutui in generale e di chi non entra in questi requisiti, di tutte le famiglie che li chiedono, spesso non li ottengono e talvolta rinunciano addirittura a chiederli. Un po' abbiamo già detto qual è la situazione, Anna Vizzari, ancora difficile. Sì, ancora difficile, ma non si muove nulla. No, vediamo qualche movimento positivo, soprattutto per i cosiddetti mutui di ristrutturazione, perché le famiglie, forse anche per andare dietro alle agevolazioni fiscali presenti adesso, stanno effettivamente richiedendo dei finanziamenti e ci sono delle banche che hanno delle offerte interessanti, con spread anche sicuramente più bassi della media. Ne parleremo tra poco, via! Salva Danaio. Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito per comprare una casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Vede, però io purtroppo non la conosco personalmente, quindi... Io, dottore, nemmeno io la conosco personalmente, però mi fido. Stia, si rilassi. Sì, capisco. No, vede, il problema, lei sa come funzionano le banche? È tutto un problema di garanzie. Cioè, poi, ma mi faccia terminare, perché non vorrei passare per questi profittatori che c'è oggi. Io questi 100 milioni non sono il tipo che lei mi dà 100 milioni per la casa, io li prendo e non mi rivedo. No! Direttore! Non sono quel tipo lì! E allora, come vi abbiamo accennato, c'è questo plafond casa che si sta attivando proprio in questi giorni con l'impegno di ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, di Cassa Depositi e Prestiti. Un'iniziativa che prevede l'erogazione di mutui con tassi agevolati per giovani coppie, famiglie con soggetti disabili, famiglie numerose. Abbiamo dedicato una puntata alle famiglie numerose, sì. Sono le famiglie che hanno a partire dai 4 figli in su, esatto. Per essere una famiglia numerosa? In questo caso da 3 figli in su, ecco, secondo la convenzione. Vedi, sono famiglie un po' meno numerose esatto. Di quello che invece sono i requisiti per entrare a far parte delle famiglie numerose. Le vogliamo invitare subito ad intervenire? Certo, come 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666, possono come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Con noi questa mattina, direttamente dall'ABI, Raffaele Rinaldi, responsabile dell'ufficio crediti, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno dottor Rinaldi e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Ci spiega bene in che cosa consiste questa iniziativa che, se non ricordo male, appunto è partita formalmente il 20 novembre. Adesso state raccogliendo l'adesione di tutte le banche, no? Esattamente, già sul sito dell'ABI c'è l'elenco delle banche che hanno aderito o sono in procinto di aderire a questa iniziativa. Il plafond casa è una disponibilità finanziaria di 2 miliardi di euro costituita presso la Cassa Depositi e Prestiti che le banche possono utilizzare per finanziare mutui ipotecari destinate all'acquisto della casa o alla ristrutturazione ed efficientamento energetico delle abitazioni. L'importo massimo dei finanziamenti che si potranno ottenere è pari a 350.000 euro massimo. Ci sono 3 categorie di soggetti che hanno accesso prioritario ai mutui offerti, che come si diceva sono le giovani coppie, le famiglie numerose e i nuclei familiari con soggetti disabili. Il vantaggio di questi finanziamenti è soprattutto nella possibilità di ottenere un finanziamento anche a tasso fisso con una durata molto lunga, fino a 30 anni. Quindi un prodotto particolarmente adatto per giovani che hanno l'esigenza di minimizzare il peso delle rate di ammortamento del finanziamento. Adesso io immagino quale potrà essere, come dire, l'importo medio che arriverà ad essere richiesto alle banche che aderiranno all'iniziativa. Negli ultimi 2 anni l'importo medio di un mutuo erogato al sistema bancario ammontava a circa 130.000 euro, forse qualcosa sotto. Abbiamo calcolato che questo plafond, dottor Rinaldi, verrà esaurito da 15.000, massimo 20.000 famiglie, no? A meno che tutte quante non chiedano l'importo massimo che lei ha indicato, sì, in 350.000 euro. 2 sì. Miliardi di euro, si poteva fare qualcosa di più secondo lei? Ci siamo un po' già lamentate di questo importo, so che lei dirà non è colpa dell'ABI e la, sì, però vi lamentate sempre. Allora, oh mamma mia. Io penso che l'importante è cominciare, quindi è bene che ci siano questi 2 miliardi, se poi le cose andranno bene e si dimostrerà che questa è una misura efficace per far ripartire il mercato ipotecario nel nostro paese, immagino che questi 2 miliardi possano anche aumentare. Dottor Rinaldi, le chiedo di rimanere ancora con noi per rispondere tra poco alle osservazioni da parte degli ascoltatori che stanno già arrivando, sia all'800 24 00 24 che al 349 238 6666. C'è una categoria che si sta lamentando, certo, se non so se hai visto. Ne parliamo tra poco, sì. Intanto voi raccontateci se state cercando di ottenere un mutuo per l'acquisto di una casa, ma diteci anche, vogliamo un po' farci i fatti vostri, in quanti metri vivete e a quale piano abitate, dovete prendere l'ascensore, esatto, insomma. E Gianluca da Terni già ci racconta che ha paura e quindi ci chiede di suggerirgli che cosa deve fare per superarla. E i piani alti, dicevi Nicoletta, sai che non conoscono crisi, parlo di quelli molto alti, parlo degli appartamenti in grattacieli, perché questi affascinanti edifici, un tempo simbolo del potere economico di Wall Street, sono diventati un'ottima soluzione anche abitativa e costituiscono una nicchia di mercato che si sta difendendo piuttosto bene. Dai Deborah, fammi sognare, mi hai quasi convinto. Lascio la villa con 33 stanze di Gwinnett, sì, che avevo adocchiato, e faccio un mutuo e vado a vivere in un grattacielo. Tra l'altro ce ne sono anche qua a Milano in costruzione, sì, sì, per l'Expo, forse prezzi da far girare la testa. Ma intanto rinnovo gli ascoltatori all'invito di chiamarci per dirci anche voi andreste a vivere in un grattacielo oppure ci vivete? Sapete tra l'altro qual è quello più alto al mondo? Al primo che indovina un libro di Cuore Denari, specificateci naturalmente se volete attingere alla libreria di Cuore, quindi salute e benessere, o quella di Denari che oppure, vi farà diventare ricca. Oppure gli mandiamo una fotografia mia e tua e sono tutti contenti. Perché noi portiamo buono. Certo, portiamo fortuna. Portiamo Cuore e Denari. 800 24 00 24. Per vivere in un grattacielo non basta avere solamente i soldi, devi esserci anche un po' portato, essere una persona che non ha paura di volare in alto per accendere un mutuo, ma anche che non deve avere paura di prendere l'ascensore, ne parlavamo poco fa, o di affacciarsi ad un'altezza non da poco, perché c'è anche gente che ha paura dell'altezza, le famose vertigini. Di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Stavo cantando. Non ti nascondere perché ti abbiamo sentito. Cioè, allora, non mettere sotto sforzo la voce perché domani sei da sola. Domani sono da sola. E devi fare tutto tu. Ma non mi hai chiesto il segreto di questa voce che si è un po' ripigliata? Non solo te l'ho chiesto, ma l'ho anche visto, il segreto con cui ti sei ripresa. Ve lo racconterò dopo. Ascensore, altezza, spazi aperti, ciascuno di noi, lo sappiamo, si confronta ogni giorno con piccole e grandi paure. Molte di queste impariamo a tenerle sotto controllo, altre invece a volte prendono il sopravvento e a quel punto ci troviamo come in una trappola. Ci sono paure che irrompono nella nostra vita e non ce lo saremo mai aspettate, altre invece che nascono con noi e con le quali impariamo a convivere. Infine ci sono paure che ci entrano da fuori, meglio, sono generate dal mondo, dal momento storico e dal contesto di vita in cui ci troviamo. Nonostante il termine paura abbia spesso una connotazione negativa, infatti si dice oddio che paura, anche la paura, cari amici, ha dei lati positivi. Qual è la paura che ci fa bene e quella invece che ci limita la vita? Lo chiedo a voi oggi all'800 24 00 24, ma lo chiedo soprattutto al nostro ospite che ci ha raggiunto. È stato il primo ospite di Cuore Denari. Chissà che ci ha portato fortuna. Ci ha portato fortuna il professor Giampaolo Perna. Adesso dovrò leggere, prendere voce per leggere tutta la sua qualifica. Lo facciamo una volta, poi dopo sintetizziamo nel corso della trasmissione. Può farlo lei, professor Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto d'Albese con Cassano e professore all'Università di Maastricht in Olanda e a Miami, che a questo tema tra l'altro ha dedicato un libro che è molto interessante, di cui abbiamo parlato, Fobie, PM Edizioni. Professore. Miami peraltro con grandi grattacieli, quando va là... Dove sono tornato 2 giorni fa. La vedo dal colore. Sono tornato 2 giorni fa. Ma devo dire che, agganciandoci a quello che abbiamo detto prima, intanto in America succede una cosa diversa. Il mutuo te lo danno per fiducia. Parlavo con una persona che semplicemente dava i volantini, no? Di una persona di Roma che è andata lì, mi diceva: guarda, hai bisogno della macchina, vai in banca e te la danno subito, senza garanzie. Se poi non le paghi, quindi io ti do fiducia. Se poi non le paghi, cosa che non è fanno? Esattamente la stessa cosa di quello che accade qui. Quindi, in qualche maniera, la paura sia di chi dà il denaro, sia di chi lo riceve, è molto minore di quello che c'è in Italia. E credo che questo sia un elemento che è fondamentale. Quindi è il concetto di fiducia che c'è di base. La paura è un meccanismo, dicevi, positivo, ha dei lati fondamentali. La paura è ciò che ci difende. E noi abbiamo paura quando abbiamo un pericolo da una parte e quando non lo conosciamo. L'esempio del mutuo è questo: se io sono abituato a prendere le cose a rate, quindi ho imparato che compro la macchina a rate, sono 20 rate da 300 euro, l'ho fatto, tutto è andato bene, certo. Un domani devo fare un mutuo di 500 euro, lo farò. Se non sono abituato, no, inizierò a fare dei fantasmi che magari non ci sono. Quindi un primo piccolo consiglio all'ascoltatore era quello del: inizia ad allenarti ad accettare i debiti. E verifica che puoi gestirli. Allora in quel caso lì tu riesci a fare meglio. Poi il mio augurio è che un sistema in cui la fiducia sia l'elemento centrale verso la gente giochi la partita del leone avvenga anche in Italia. Bisogna avere fiducia anche dell'ascensore, Nicoletta? Beh, sull'ascensore perché è una paura un po' diversa. La paura dell'ascensore è una paura molto diffusa, più diffusa di quanto ce ne possiamo immaginare. Ci sono delle persone insospettabili, io abito al 7° piano, magari persone che ti sembrano assolutamente equilibrate, no? Affermate, e le vedi che non prendono l'ascensore perché hanno paura evidentemente dello spazio chiuso, ma non solo, perché dietro alla paura si nascondono tanti altri timori. Il professor Perna, a proposito della paura dell'ascensore, in diverse puntate ha suggerito un modo per combatterla e per superarla, soprattutto se la paura noi dobbiamo prenderla di petto, se ci limita sensibilmente la vita, cioè ci toglie un po' la libertà. Uno che abita in un grattacielo e non può continuare ad andare a piedi, sicuramente ne guadagnerà la sua forza fisica, ma, professor Perna, lei suggeriva infatti di fare delle piccole un ascensore a rate, in fondo il problema si risolve teoricamente molto facilmente, cioè io devo fare esattamente come quando insegno a qualcuno a camminare, non è che posso dirgli alzati e corri, no? Prima gli faccio salire su, poi fare un piccolo passo, accompagnato e così via. Quindi bisogna affrontare in maniera molto graduale. Bisogna essere costanti, perché il nostro cervello impara soltanto se noi ripetiamo le cose. Quindi uno deve, esempio, io ho paura di andare in ascensore, inizierò a entrare nell'ascensore, di quelli molto aperti ovviamente, grandi finestroni, e aspetterò che si chiuda, non salirò su e aspetto che si apra di nuovo. Lo farò varie volte fin quando sono sicuro. A quel punto lì magari dirò faccio un primo piano accompagnato da qualcuno di fiducia e lo faccio molte volte, quindi bisogna farlo passo per passo. Il segreto per vincere la paura è quello, è avere informazioni corrette e affrontare di petto le cose in maniera molto graduale. Questo vale per tutte le paure in generale. Il problema delle fobie qual è? È che le fobie sono paure patologiche, quindi sono paure sbagliate. In questo caso si può applicare questa tecnica, ma se per esempio io ho paura dell'ascensore perché mi vengono gli attacchi di panico e io non curo gli attacchi di panico, certo, allora io piano piano entro dentro, come sono bravo, poi mi viene una bella mazzata sui denti e allora dico io non ci vado più. Li dobbiamo invitare qui al Sole 24 Ore, questi impauriti dell'ascensore, perché sono tutti trasparenti, lei dottor Perna li ha visti, appunto, e magari non so, oppure peggio, vedere quello che c'è all'esterno e quindi vedere anche la salita che ci allontana dal terreno. Tipo, perché se io soffro di vertigini, per esempio, ho paura degli ampi spazi aperti, paradossalmente la vetrata è aperta, mi dà fastidio, no? Se io ho la claustrofobia, invece ho paura dei luoghi chiusi, è facile che vedere l'esterno mi aiuti molto di più. Quindi purtroppo le paure non sono così uniche. Allora, professor Perna, me l'ha servita su un piatto, dimmi che paura hai e ti dirò chi sei. Esatto. Chiamateci e raccontateci oggi la vostra paura. Ci sono paure anche particolari, un po' strane. Sì. Un ascoltatore ci ha scritto che il suo bambino ha paura dei palloncini. Ci sono bambini poi che hanno paura delle maschere o dei clown. Ci sono delle paure che noi ci portiamo dietro con gli anni, paure che sono nate quando eravamo bambini e non siamo mai riusciti a superarle, le abbiamo magari accantonate, non le abbiamo affrontate e hanno generato un'altra paura. 800 24 00 24, oggi soprattutto con il professor Perna cercheremo di capire la differenza tra bugie. Stavo dicendo bugie. No, l'hai detto? Sì, stavo pensando alle bugie. Le paure che possono essere, se vogliamo, posso dirlo, fisiologiche, quindi accompagnarci, darci magari un sprint in più, e invece quelle paure che diventano patologiche ci ingabbiano. Il confine a volte può essere molto leggero, quindi chiamateci e ne parliamo. No, tra l'altro invece volevo chiedere, a proposito di paure, chiedo prima un commento ad Anna Vizzari, poi vado anche al dottor Rinaldi dell'ABI, perché si ha tanta paura in sistema bancario di accontentare i single, le persone che non sono una famiglia, perché parlando di questa misura straordinaria, questo plafond casa da 2 miliardi di euro, abbiamo appunto capito nell'elenco delle categorie che avranno la possibilità di accedere a questo fondo, non sono contemplati i single. Anna, perché? Allora, diciamo che non sono contemplati tra i beneficiari prioritari, poi comunque se il plafond basterà anche gli altri potranno accedere, non c'è una limitazione. Chiedo subito, dottor Rinaldi dell'ABI, ce lo conferma? Sì, confermo tutto. E poi perché si privilegia la famiglia? Perché essendo una misura dello Stato, sappiamo bene che lo Stato italiano ha comunque questa idea di dover promuovere appunto la famiglia come base dello Stato, quindi di conseguenza ci sta anche che le misure siano a favore della famiglia più insomma, che del single. Per fortuna che sono riuscita a prendermelo qualche anno fa, ma sono 10 anni che pago, per cui non ho avuto questa contestazione dal direttore di banca. Luca da Genova, Stefano da Bergamo. Luca, buongiorno. Luca, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Volevo farvi una domanda. Io sono papà di 2 bambini, con una compagna con la quale non sono sposato, che ha altri 2 figli, ha avuto altri 2 figli con un'altra persona, che sono a carico di quest'altra persona. Lei vive a Bergamo, io vivo a Genova e sono libero professionista. Cerchiamo casa a Bergamo e volevo sapere se questa nuova fattispecie di finanziamento mi può riguardare, vista la mia situazione un po' complessa, oppure no. Nel provvedimento tra i beneficiari prioritari, quando si parla di coppie giovani, si parla non soltanto di coppia sposata ma anche di conviventi in more uxorio, purché il nucleo sia costituito da almeno 2 anni. Allora mi viene da dire che se ci sono dei figli di 4 anni, esatto, che la convivenza more uxorio probabilmente c'è, quindi a questo punto potrebbe essere certo, ricompreso tra appunto i beneficiari prioritari avendo più di 3 figli, a questo punto anzi certo, 4. Sì, esatto. Dottor Rinaldi, volevo chiederle un commento anche a proposito di questo, se vuole supportare le indicazioni di Anna Vizzare, che sono sicuramente molto precise. Le chiedo anche appunto di cominciare a dirci la questione appunto dei tassi che verranno praticati a questi mutui, perché la normativa insiste su tassi agevolati. Che differenza ci sarà con i tassi di mercato? Che cosa devono aspettarsi le famiglie che andranno a chiedere questo mutuo? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, confermo quanto detto dalla dottoressa Vizzari. Sostanzialmente mi sembra che il caso dell'ascoltatore, sì, dell'ascoltatore possa rientrare anche tra i soggetti che avranno accesso prioritario. Detto questo, il fatto di non essere un soggetto prioritario non preclude in nessun modo la possibilità di poter beneficiare di questi finanziamenti. Chi lo deve dire lì, dottor Rinaldi? La banca, oppure la banca che una volta aperta l'istruttoria deve chiedere il permesso alla Cassa Depositi e Prestiti per erogare un mutuo secondo questi criteri? No, di fatto è direttamente l'istituto di credito? È il soggetto che fa un'autodichiarazione di possedere determinati requisiti e quindi rientrare tra i soggetti beneficiari. No, ho capito, poi il via libera è esatto. Poi chiaramente la banca, sulla base delle dichiarazioni del cliente, trasmette la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti. Che a sua volta deve vidimare, immagino, perché è un po' come il fondo di solidarietà per chi deve sospendere il mutuo. La banca magari fa partire la pratica, poi ci deve essere un benestare che è ad un altro livello. Cuore e denari. Mutuo è quando chiedi soldi alla banca. E come funzionare? Come funzionare? Ancora? Ve l'ho già spiegato. Allora, se tu volere i soldi dalla banca, loro dare i soldi e fare un piacere a te, e quei soldi valere 7-8%. Se tu invece avere i tuoi soldi e mettere in banca in conto corrente, fare un piacere alla banca, ma non si sa perché, a quel punto i soldi valere 1-1,5%. Ma allora, e se vuoi il terzo mondo? Come avete potuto immaginare da questo brano, di questo film, oggi torniamo su un tema che è sempre tra i preferiti da parte dei nostri ascoltatori. Parliamo della casa e del mutuo e abbiamo associato questo argomento a quello della paura, non solo per le altezze dei grattacieli su cui abbiamo giocato, ma perché impegnarsi per periodi di tempo così lunghi può scatenare anche sentimenti di timore e di ansia. Allora, forse il primo modo per placare questi timori è quello di individuare, Anna Vizzari, una rata sostenibile, a prescindere da questa iniziativa Cassa Depositi e Prestiti e abbi il plafond casa. In termini generali, scegliendo un mutuo è meglio sceglierne uno che appunto abbia una rata sotto controllo. Giustamente, infatti stiamo parlando anche di paure positive. In questo caso probabilmente possiamo trovare un esempio di paura positiva, nel senso che, essendo sicuramente il mutuo un finanziamento che impegna il cliente per tantissimo tempo, mediamente 20 anni, per un ammontare consistente, almeno 120.000 euro in media, a questo punto è giusto prendere le precauzioni, raccogliere informazioni per fare dei confronti e significa anche sapere, essere consapevoli di che cosa comporta l'accensione di un mutuo. Innanzitutto la banca, quando si andrà a chiedere un mutuo, farà delle valutazioni sull'affidabilità del cliente e bisogna sapere che comunque la rata del finanziamento in situazioni normali di mercato non potrà mai essere superiore al 33% del reddito netto del cliente. Certo. In situazioni normali, perché adesso in realtà questo parametro è anche questo irrigidito e quindi stiamo parlando del 20% in moltissimi casi. Però insomma, anche se questo ci fa un po' indispettire, la banca in realtà, mettiamola così, ci tutela da situazioni un po' di... Esatto, di sovraindebitamento. Ed ecco, che cos'è che ci deve, cos'è che ci fa capire questo? Che sostanzialmente la banca ovviamente tutela se stessa dalla possibilità di avere sempre un ritorno del finanziamento che ha concesso, però in un certo senso è anche una tutela per il cliente, soprattutto quando sceglie un mutuo a tasso variabile, perché sappiamo che il mutuo a tasso variabile, anche se economicamente è più conveniente attualmente, è un mutuo rischioso. La rata può cambiare, esatto, per cui avere questo limite di rata già dall'inizio dà la possibilità al cliente di eventualmente sostenere anche aumenti della rata nel tempo. Noi diciamo infatti di non scegliere mai un mutuo a tasso variabile se non si è in grado di sopportare fin dall'inizio un aumento anche fino al 30% della rata periodica. Per cui, che non è una situazione che non si può verificare, perché si è già verificata nell'autunno del 2008 e le rate dei mutui a tasso variabile sono letteralmente esplose per chi l'aveva, il mio compreso. Hai avuto paura di non farcela? Non è che mi piaceva tanto vederla, però io avevo già, come dire, messo in testa che questa situazione si potesse verificare, quindi dei calcoli li avevo fatti e tenevo, però c'era chi invece non l'ha fatto. Sai perché? Perché stavo ragionando che spesso la paura ha dei significati diversi da quelle che noi siamo portati ad attribuirle. Ad esempio, dietro il ragno, dietro la paura del ragno c'è dell'altro, così come dietro la paura di volare o di prendere l'ascensore. Professor Perna, come dobbiamo saper riconoscere il mutuo che fa per noi, come ci ha spiegato Anna Vizzari, noi dobbiamo anche imparare a riconoscere il tipo di paura che abbiamo e soprattutto da che cosa è originato. Dobbiamo un po' leggere tra le righe delle paure, andare al di là dell'oggetto che ci fa paura in sé. Ma la prima cosa che dobbiamo ricordarci è che la paura è fondamentale per la nostra vita, quindi non aver paura vuol dire in 448 rischiare la propria vita, la propria famiglia, quindi la paura è un elemento chiave per la sopravvivenza. Ricordiamoci che la paura è una delle emozioni primarie del nostro cervello, cioè il nostro cervello ha un hardware costruito per aver paura e questo è un elemento che risulta essere centrale. Il contrario della paura non è il coraggio, ma è l'incoscienza. Il coraggio è invece una persona che ha paura, quindi è consapevole dei rischi, ma li supera, li affronta. Quindi nel discorso dei mutui, che comunque parliamo di un argomento molto importante oggi, la paura ci preserva, è vero, però è anche vero d'altra parte che se è eccessiva evita che noi cogliamo le opportunità. Quindi bisogna avere un bilanciamento corretto tra il livello di paura e il coraggio nell'affrontare e superarle. È vero, ultimo punto, dietro alcune fobie invece, paure patologiche, ci possono nascondere diversi disturbi, allora in quel caso andiamo in condizioni importanti da curare. Rispondiamo ad un ascoltatore che ci scrive: aiuto, il buio mi tormenta, 40 anni non riesco a stare al buio in qualsiasi posto, ma solo se sono solo. Questa è una paura patologica? Il buio per tutti noi ha un senso di pericolo, perché noi non vediamo cosa c'è, non possiamo difenderci facilmente. Quindi la paura del buio in quantità minima è assolutamente fisiologica, soprattutto quando siamo bambini. Tu hai parlato delle maschere, hai parlato di tante paure dei bambini. Le paure dei bambini sono funzionali. Il bambino è l'essere più indifeso, no? Per cui deve avere tanta paura. Purtroppo in alcuni casi queste paure diventano fobie, cioè paure esagerate, come questa. In questo caso una persona che è adulta, capace di affrontare la vita e il mondo, si trova bloccato. L'unica cosa che può fare è fare un programma di graduale, piano piano esposizione al buio, ma fatta con un terapeuta. Questo aiuta a superarla. Andiamo a Paolo, ci chiama da Varese. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Sì, dica. Non abbia paura, Paolo. No, assolutamente. No. Accenda un mutuo. Mio figlio, che ha 2 anni e mezzo, ha ancora paura di un oggetto che avevo comprato, un maialino di quelli che vendono autogrill e quindi fanno il verso del maiale. Io l'ho regalato 1 anno e mezzo fa. Lui adesso ha ancora terrore, nonostante le scorpacciate di Peppa Pig, quando vede, piuttosto quando sente il suono di questo maialino è sufficiente anche a tenerlo lontano da una stanza. E quindi non c'è verso di... Sì, ma Paolo, ma lo butti via. Anche io dico, lo butti via questo maiale. Perché ogni tanto lo sottopone a questo supplizio, povera stella. Paolo, grazie mille. Professor Perna, io avevo paura, ad esempio, degli occhi delle bambole. Sono paurosi gli occhi delle bambole o no? Sono particolari, inquietanti, diciamo. Adesso così. Se il professor Perna mi dice venga con me, esatto, no. Vuol dire io, che sono grave. Personalmente i bambini li difendo sempre, nel senso che loro hanno tante paure, tanti comportamenti che in età adulta sarebbero comportamenti da curare, ma per loro sono assolutamente normali. È chiaro che ho ben presente il maialone, perché ogni volta che mi fermo agli autogrill vado lì a schiacciarlo, no? E di solito i bambini vengono. Che coraggioso che è, certo, proprio coraggioso. Perna. Però il concetto è che quel suono comunque è un suono forte. È un suono in qualche maniera che può essere il segnale di un potenziale pericolo, no? E quindi è facile che ecco, ma la domanda sorge spontanea è questa: quando, adesso non del maiale, perché secondo me il maialino si può buttare via o si può regalare magari al cuginetto a cui non fa paura, quando un bambino ha paura, qual è il ruolo dei genitori? Cercare di fargli avvicinare o perseverare oppure bisogna allontanarlo dal... L'idea è quella di fargli affrontare piano piano e gradualmente le paure con la dolcezza che aveva un genitore, quindi non della serie devi essere Rambo e devi buttarti, quello no, ma neanche quello devo evitarti tutte le paure, perché sennò no, un po' di paura, un po' di sofferenza rafforza comunque il carattere del bambino, e il fatto di insegnargli che può superare le paure affrontandola è quello che gli permetterà in futuro di diventare una persona coraggiosa. 800 24 00 24, continuate se volete a condividere le vostre paure con noi. Questa mattina cercheremo di analizzarle insieme, anche quella di entrare in banca a chiedere un mutuo. Stefano da Bergamo ci ha chiamato appunto al nostro numero verde, vuole capire se nella sua situazione può accedere alla misura della quale stiamo parlando questa mattina. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Io ho famiglia, sposato con figli, e ho carico praticamente il suocero e suocera. E il suocero ha da 2-3 anni problemi di chemio, cioè facendo la chemio, tumori così. Posso rientrare in questa, diciamo, scontistica, certo, del mutuo, visto che sto cambiando la casa perché ce l'abbiamo, ma non è sufficiente, certo, per mantenere tutto. Devi ringraziarsi, giustamente, Stefano. Grazie, Stefano. Grazie, Anna. Molte. Volevo sentire Rinaldi, perché siccome deve lasciarci, così almeno gli facciamo dare una risposta. Scusatemi, non volevo intromettermi, è solo per... Dottor Rinaldi, questa problematica appunto di salute del suocero, del nostro ascoltatore, rientra nelle condizioni di disabilità previste da questa norma? In realtà la norma e l'accordo fa riferimento a soggetti disabili ai sensi della legge 104 del 92. Adesso non conosco esattamente se il caso segnalato se rientri tra i soggetti disabili previsti dalla normativa. Quindi dovremo appunto magari con Anna Vizzari, poi ce lo studiamo con calma questo caso. Dottor Rinaldi, poi la salutiamo perché so che lei questa mattina è impegnato. Ci chiarisce solo l'aspetto che ho sollevato prima, la questione dei tassi agevolati a cui questi mutui verranno praticati per chi li chiederà. Cosa significa? Allora, anzitutto questo provvedimento è un provvedimento che non è una forma di, non è una normativa agevolata in senso classico, per la quale sono previsti dei contributi agevolativi che vanno ad abbattere il costo del finanziamento. L'accordo prevede che le banche fissino autonomamente il tasso di interesse, che però deve essere un tasso di interesse inferiore rispetto a quelli che vengono ordinariamente offerti sul mercato. Quindi, Di quanto? Un pochino? Tanto? Mezzo punto? 0,2%? 0,3%? Allora, dipenderà dalle singole banche. Ho capito. È difficile dare un'indicazione univoca che riguardi tutto il sistema. Insomma, quindi siamo ancora in fase di rampa di lancio. Questo è proprio un aspetto della norma che probabilmente aveva bisogno di una maggiore attenzione, nel senso che lasciare così spazio alla politica delle banche probabilmente farà sì che le agevolazioni siano molto ridotte. Dottor Rinaldi, è vero che oggi avete un incontro con le associazioni dei consumatori per discutere dell'operatività di questa misura? Sì, abbiamo avuto un incontro nel quale abbiamo illustrato lo strumento in maniera tale che anche le associazioni dei consumatori conoscano lo strumento e poi lo possano spiegare ai propri associati. No, speriamo che lo spieghino bene le vostre associate banche, dottor Rinaldi. Grazie molte. Grazie, buona giornata, a presto. Cuore e denari. Deborah, tu il mutuo ce l'hai? Sì, sì. E la paura tua qual è? Adesso, oddio, sai, la perdita del posto di lavoro con questa crisi che ci attanaglia, non è che non abbiamo mai preso in considerazione anche questi spettri, perché sono sempre cose che riguardano gli altri e mai noi. E invece ho cominciato ad essere anche un po' più concreta su questo. Che cosa potrei fare se mi succedesse? E tu? Io, e la tua stessa paura è un po' quella primo. Di tutti, e poi chiaramente sono assunta, famiglia, e poi la famiglia, la cuore. Salute, le malattie. Anna, tu qual è la tua paura? Quelle che avete detto, per una paura particolare mi fa paura lo scarafaggio. Professor Perna, lei che le paure aiuta gli altri studia, a sconfiggerle, le affronta, esatto. Avrà una paura? Ha acceso mai un mutuo o ha paura di accendere un mutuo? Devo dire che di grandi paure personalmente non ne ho, no? Nel senso che per esempio il discorso della paura dello stipendio dipende dalla quantità di lavoro possibile, perché se il lavoro fosse abbondante io non ho paura di perderlo, certo. Io ho paura semmai di non ritrovarlo, questo è il vero problema, perché facevo l'esempio, ma ero in America dove i posti fissi non sono così facilmente presenti, ma la gente non ha paura perché tu sai che fini perdi un lavoro oggi, lo cambi, domani lo trovi. In Italia se lo perdi oggi, esatto. Oggi non si sa quando trovarlo. C'è proprio il concetto di flessibilità, sì, che è estremamente diverso. Sì. Essere e benessere. Il terrore fu improvviso, angosciante e così vero. Ero cosciente di dover reagire e presi una decisione: che la paura facesse il suo corso, che si impadronisse di me, ma solo per 5 secondi, tanti gliene concessi, e iniziai a contare. 1, 2, 3, 4, 5. E mi passò. L'abbiamo definita, l'abbiamo chiamata per nome, ora gestiamola, professor Perna. Ci può suggerire 3 mosse per tenere sotto controllo la paura? Molto dal ragno all'ascensore, all'aereo, al serpente che primo è stato evocato. Bisogna affrontarla in vivo, cioè bisogna affrontare la paura, l'oggetto della paura. La seconda cosa va affrontata gradualmente, piano piano. Mm-hmm. E il terzo punto bisogna ripetere. Cioè non basta affrontare una volta, bisogna consolidare questa vittoria che noi abbiamo. Questi sono i 3 punti principali. E 3 sono anche le risposte, devi sapere, del nostro corpo e della nostra mente davanti a un pericolo. 1 è l'immobilizzazione. Ascoltavo quello che diceva l'ascoltatore. Quindi noi, quando ci troviamo davanti a un pericolo, la prima cosa è abbiamo un momento in cui ci immobilizziamo. Se voi aveste visto i filmati, per esempio, dell'attacco alle Torri Gemelle, proprio avendo la scansione dell'immagine, la prima cosa che è accaduta è che la gente è diventata immobile per un istante. Poi si passa alla reazione, che è la lotta o la fuga. Quindi quando il pericolo noi possiamo affrontarlo e superarlo, lottiamo. Quando non possiamo farlo, andiamo via. Quindi ci immobilizziamo davanti al pericolo, e quell'attimo, quello che abbiamo sentito è questo, e poi reagiamo. Quindi questo è il modo di funzionare. L'altra cosa è ricordarsi che le paure sono varie. Ci sono 2 grosse categorie. Faccio un esempio. È logico aver paura dei ragni? Beh, ci sta, perché i ragni potrebbero essere velenosi e quindi se ci pungono. È logico aver paura degli alberi? Un po' di meno. Però è vero che se a noi c'è caduto e c'è esploso davanti un albero sotto un fulmine, oppure è successo qualcosa, io posso acquisire una paura di una cosa innocua, o posso essere geneticamente portato a aver paura di una serie di cose. Quindi la paura, quella innata, quella primaria, è quella che ci serve per difendersi dai potenziali pericoli. Però possiamo acquisirne tante altre con la nostra esperienza. Tra l'altro ha citato le Torri Gemelle richiamando i grattacieli più alti, lo erano in passato, ma poi non ci sono state. Esatto. Poi adesso c'è la Freedom Tower, che quindi è un'altra adesso ad Anna, ci avviciniamo. Ad Anna Vizzari devo prendere uno scarafaggino piccolino, no, finto. Dai, l'ho già fatto. Poi uno un pochino più grande, poi te ne porto uno scarafaggione. Esatto. Poi c'era in questi giorni sui giornali la un storia ragno. Di questo ragno gigantesco sulla parete di un signore veneto, non so che cosa, ma noi abbiamo immaginato che fosse uno scherzo, perché era talmente incredibile che da questo camion arrivato da questa casa fosse uscito questo animale. Ma non invece so. Io vorrei tornare al professor Perna per chiedergli, attenzione, ci sono delle paure e va bene, le conosciamo, proviamo ad affrontarle e a gestirle, ma attenzione se alla paura si associano dei segnali fisici, cioè fisicamente avvertiamo la paura, come? Con la tachicardia molto forte, con il respiro che manca, con la sudorazione, le gambe che tremano, le gambe che fanno Giacomo, non ho mai capito perché Giacomo e non Pierino, ma abbiamo Massimo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Io volevo esporre il mio problema. Cioè, io ho una fobia, io credo da sempre, da quando ero piccolo, mi ricordo io da sempre, che io ad esempio quando vado negli spazi particolarmente grandi, cioè tipo, non so, io abito a Bologna, perciò vado in Piazza Maggiore, cioè in Piazza Bologna, cioè io mi blocco, cioè comincio a sudare, mi tremano le gambe, anche se io provo, come diceva il professore prima, cioè a superare questa situazione qua, non ce la faccio proprio. Cioè, io saranno 40 anni che non vado, anche forse di più, che non vado a Bologna, in centro, perché abito in periferia, a meno che non sia sotto braccio, non so, mia moglie o qualcuno, però anche lì, se ad esempio passo dove ci sono, ad esempio, di notte, dove ci sono tutte le vetrine illuminate così, cioè mi viene il terrore. Massimo ha già messo in atto, Massimo, quello che psicologi e psichiatri chiamano la fase del levitamento. Sì. Professor Perna, abbiamo pochi secondi per rispondere a Massimo, ma molto ci torneremo. Sinteticamente, se dietro queste paure c'è qualcos'altro, per esempio ci sono gli attacchi di panico, che sono molto frequenti, è chiaro che o io curo gli attacchi di panico oppure posso affrontare la paura mille volte ma non mi passerà. Quindi è facile che comunque debba essere uno specialista a capire cosa si nasconde dietro. Quindi la paura è un comportamento, è un evitamento di qualcosa. Chi ci segnala c'è che è un pericolo da evitare. Dobbiamo superare quel pericolo per poter tornare liberi di muoverci. Benissimo. 800 24 00 24, continuate a prenotarvi. La prossima mezz'ora tutta dedicata a voi. Anticipo già ad Anna Vizzari che c'è chi ci chiede se chi ha già un mutuo può rinegoziarlo con le nuove condizioni. Vedo già Anna Vizzari che scuote la testa. Arriverà un no sonoro per tutti. Cuore e denari. A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna c'ha messo... Stavamo commentando questa, come dire, nuova immagine anche di Luciano Ligabue col capello un po'... A me piace. Non ha paura di invecchiare, evidentemente, tra le varie paure che magari possono così pervaderci, no? Improvvisamente nella nostra vita, prendendo coscienza... Mi piacerebbe molto averlo qui a Cuore Denari. Chissà, che tipo di domande di denari gli potrei fare? Non mi voglio mica fare tanto gli affari suoi, Ci inventeremo qualcosa. Okay. 800 24 00 24 spazio alla voce di chi non ha avuto paura a superare la barriera rosa e si è messo in contatto con noi per parlare di mutui insieme alla nostra esperta Anna Vizzari e per parlare anche delle paure di accendere il mutuo, ma non solo di quelle paure, insieme al professor Perna. Roberto, buongiorno da Verona. Roberto, salve. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Trasmissione sempre interessante. Ottimo. Oggi particolarmente perché io sono un 59enne claustrofobico. Io mi sento limitatissimo, a prescindere dall'ascensore, che vabbè, quello diciamo è una cosa importante. In banca non ci entro. Le buste della banca per me sono una cosa fastidiosissima. Devo fare il bravo perché non posso permettermi di andare in galera, perché se mi chiudessero in una cella, quindi sono obbligato a fare anche il bravo. Vede, quando la paura serve. Aveva qualche tentazione, Roberto, di fare qualche marachella, no? No, però questo è un motivo in più che non le posso fare. Ma devo dire il che problema, il problema mio è un altro. Io ho 59 anni, presumo che magari forse qualche giorno, non avendone più 20, avrò bisogno anche di qualche ricovero per qualche visitino che... E come la mettiamo se dovessi andare in un ospedale? Vabbè, però gli ascensori divento matto. Però allora fermiamoci al presente, Roberto. Intanto lei ha avuto una magnifica idea a chiamarci, perché i nostri esperti sono pronti a darle, ciascuno dal proprio osservatorio, un suggerimento per vincere questa paura. Anna Vizzari, fisica della banca. Ecco, io mi limito a dire che, visto che abbiamo dei servizi ormai online molto sviluppati su cui si può fare qualsiasi cosa, consiglio al nostro radioascoltatore lavoratore di fare tutto online potrebbe anche risparmiare parecchio. Prima cosa, oltre quindi che... vince la paura, non si trova nella condizione di aver paura, meglio, esatto, e risparmia. Ma il professor Perna invece... Io devo dire che la paura generalmente la si vince se uno fa una terapia comportamentale fatta per bene. Quindi il problema è che noi tentiamo da soli di affrontarla. In realtà ci sono delle tecniche particolari, pensate che ci sono dei psicoterapeuti che studiano 4 anni interi, allora o guardano il soffitto o vuol dire che stanno studiando molto in maniera approfondita, perché è importante il modo in cui si affrontano, i tempi con cui si affrontano, il contesto, cioè con chi lo si affronta. Quindi non basta dire vai e vinci la paura, ma ci sono tanti piccoli particolari che non vanno valutati. La terapia comportamentale funziona molto bene, a meno che non ci siano dietro gli attacchi di panico. E molte persone claustrofobiche in realtà hanno paura di star male in quei posti lì, perché hanno vissuto delle sensazioni brutte. In quel caso lì bisogna agire sulle sensazioni brutte, evitare che vengano. Vogliamo solamente raccontare quali sono i segnali dell'attacco di panico, perché molte persone le hanno provate ma non sanno di aver vissuto un attacco di panico, pensano di aver avuto una paura molto forte. Ci sono persone che vanno anche in pronto soccorso perché hanno un attacco di panico, sentono questo dolore forte e poi per fortuna il cuore non ha nessun problema e dico io solo un attacco di panico, ma metto quel solo molto tra virgolette, perché l'attacco di panico, se non viene diagnosticato e superato, può davvero avvelenare la vita. Professore, okay, l'attacco di panico è il più fisico dei disturbi mentali, no? Cioè io mi sento male fisicamente, col cuore che batte forte, mi manca il fiato, sudo, tremo, mi sento svenire, il tutto che esplode molto rapidamente e di solito passa in pochi minuti. I primi attacchi spesso sono improvvisi, inattesi, poi piano piano avvengono le situazioni che uno teme. Allora cosa succede? Io sto male. Se io sto male e non mi viene data una risposta, inizio ad aver paura di star male, perché è vero che non ho niente di fisico, sono andato al pronto soccorso dal medico e non mi hanno trovato nulla, ma è vero che continuo a star male e quindi inizio ad avere la paura della paura. La paura della paura poi mi conduce a difendermi, quindi a evitare tutte quelle situazioni e quei luoghi in cui potrei star male e potrei o non trovare aiuto o non scappare. Ed ecco che il bussolotto della banca diventa un qualche cosa in cui potrebbe capitare di bloccarsi. In quel caso lì, se io sto male, cosa faccio? È molto importante ricordarsi che dietro alcune fobie ci sono poi dei disturbi che vanno curati diversamente dal semplice approccio del comportamento. E in quel caso lì però davvero, se la storia è molto lunga, andate, non avete paura dello psichiatra, non è un mostro, neanche lo psicoterapeuta. Perché c'è chi ha anche paura dei medici. Sì, moltissimo. Dottor, esatto, ce lo stanno scrivendo. La paura dei medici nasce da due cose. Uno, dalla naturale paura del fatto di avere qualche malattia. Quindi io quando faccio un esame, fino a quel momento mi sono dimenticato della possibilità di poter stare male, in quel momento me lo ricordano. Seconda cosa, io posso essere ipocondriaco. Allora, l'ipocondriaco è quello che ha paura delle malattie, ma vuol dire una paura assurda, esagerata. In quel caso lì il medico diventa da una parte colui che rassicura, dall'altra parte colui che ci conclama, ricorda che c'è. Esatto. Però, professor Perna, lei può mi può confortare dicendo che lo psichiatra non è un medico diverso dagli altri, però devo dire che lo psichiatra fa paura, perché si pensa subito che ti dia delle medicine, che siano troppo forti per che ti condizioni, certo, di non poterne più fare a meno. Insomma, lo psichiatra è una figura che ancora nell'immaginario collettivo è un medico da cui uno, no, spero di non avere nulla a che fare. Invece noi ne abbiamo parlato tante volte, lo psichiatra è veramente lo specialista che può aiutare a risolvere delle situazioni per tutte quelle persone che hanno in quel momento una malattia mentale, che significa che deve avere uno specialista che fa una diagnosi e ci sono le terapie per superarle, giusto? Ricordiamoci che come il medico cura il raffreddore e il cancro, così lo psichiatra può curare la fobia di un piccione e curare la schizofrenia. Quindi lo psichiatra non è il medico dei matti, è il medico che si occupa di tutti i disturbi della mente, da quelli più semplici e banali a quelli più gravi. Purtroppo oggi esiste un grave pregiudizio e questo fa sì che si arrivi allo psichiatra soltanto dopo aver fatto un lungo percorso, magari sbagliato, dovuto alla paura, e quindi si perde un anno di vita. Perché ricordatevi che la fobia, certo che piccolina, ci si adatta, ma vi frega la libertà, quindi vi frega il diritto di essere liberi, di scegliere liberamente. Quindi non lasciatela cadere, ma affrontatela. Attacchi di ansia e panico probabilmente sono venuti in questi anni a chi a Navizzari la rata del mutuo non riusciva a pagarla per tante ragioni, per sopraggiunte difficoltà economiche, per l'improvvisa perdita del posto di lavoro, ma anche per altre situazioni che si possono presentare. Allora, come hanno gestito queste paure i nostri ascoltatori? Ti faccio sentire, Anna, due appunto amici che ci chiamano all'800 24 0024 che hanno in questo momento questo problema. Marco dalla provincia Monza e Brianza e Giuseppe da Padova, quindi li sentiamo tutti e due insieme in modo tale che possiamo dare una risposta più articolata ad entrambi. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci dica. Io da 14 mesi non lavoro, ho concluso diciamo con un rapporto di agenzia la mia ultima occupazione, perché sono un agente di commercio, quindi con la partita IVA aperta, ho chiuso alla fine del 2012 e quindi da 14 mesi non lavoro, sono andato in banca a chiedere la sospensione temporanea del mutuo. E mi è stato risposto che non avevo diciamo i requisiti per accedervi, anche se io ho controllato diciamo nei limiti delle mie diciamo conoscenze e possibilità via internet con le ultime disposizioni di legge in merito, ed effettivamente i requisiti li avevo tutti, compreso il parametro ISEE al di sotto, se non ricordo male. Però Marco, allora rispondiamo subito, allora, in realtà no, quello fondamentale non ce l'aveva. E il rapporto di lavoro che sostanzialmente era quello di una partita IVA e non invece di un contratto di lavoro a tempo. Ecco, detto che Marco, adesso la facciamo, non può accedere appunto all'attuale fondo di solidarietà per la buona volontà del direttore però di banca. Esatto, ecco, è quello che volevo dire, che la banca comunque ha la possibilità in qualche modo di intervenire. Ci sono stati anche in passato dei provvedimenti anche voluti dall'ABI di sospensione volontaria da parte della banca del mutuo, per cui sostanzialmente almeno per un anno c'è la possibilità di con la moratoria. Però credo che anche in quel caso i lavoratori autonomi fossero esclusi. Detto questo, ribadisco, sì, ci può essere comunque, se è un cliente magari particolarmente affidabile, no, e che di sua iniziativa è andata a dire sono in difficoltà, non è lasciato che le rate appunto fossero non rispettate senza dir niente, se magari si è già presentato, io penso che magari insiste. Marco, faccia una cosa, ci scriva che provo ad indagare per vedere se questa banca le può dare una mano. L'indirizzo è cuoredenari@radio24.it. E andiamo a Padova, c'è Giuseppe che ci aspetta, buongiorno. Come si poteva chiamare un abitante di Padova? Giuseppe. Se non Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Perché fai questa faccia? No, stavo pensando a Giuseppe. No, stavo pensando Giuseppe perché mi richiamava Giacomo, di cui abbiamo anche. Già. Allora diccela. Lei perché lo sa Giuseppe perché si chiama? Perché la paura fa Giacomo, le gambe tremano? Ma so che è un modo di dire, ma non ho la più pallida idea. Allora, secondo ci sono due filoni di pensiero. Il primo è, ne mettiamo quello di Daniele da Milano, ma molti l'hanno seguito, è che il suono che fanno i pantaloni di velluto quando le gambe sfregano tra loro, molti dicono appunto è il suono, mentre secondo me va meglio quella di Antonio da Roma, è più credibile, che viene da Jacopo de Compostela quando alla fine del percorso le gambe non le sentivano più e tremavano. Hai capito. Quindi Giuseppe, che ci sembra lei che del tutto, dice? Del tutto pertinente. Le capita che le sue gambe facciano Giacomo? Qualche volta può capitare, sì. Eccoci qua. Magari quando ha stipulato un mutuo? Ci dica Giuseppe. Beh, io per fortuna quelle paure le ho superate. Io stipulai un'assicurazione con la mia banca che mi proposero loro, credo tra la fine del 2008-2009, proprio all'inizio della crisi, quando che succedeva di casse integrazioni sempre più spesso, licenziamenti, qualche azienda che cominciava a chiudere. Colsi l'occasione, perché devo considerarla tale, in quanto fatalità mia moglie un paio d'anni dopo perse il lavoro e quindi questa assicurazione per un anno quantomeno pagò, come da accordi, la quota parte del mutuo della moglie. Per cui, voglio dire, credo esistano soluzioni o comunque appigli per in qualche modo affrontarle queste paure e risolverle, è sempre un problema un po'. Certo, un po' Giuseppe, grazie per questa tua testimonianza, perché qualche volta anche le assicurazioni a Navizia le guardiamo con sospetto, crediamo di assicurarci, paghiamo appunto il premio, poi però chissà che cosa succederà, tanto non pagheranno mai. Invece nel caso di Giuseppe è andata bene. Anche è stato fortunato. È stato fortunato, ma forse sì, nel senso che normalmente le coperture invece sui mutui, la copertura del credito del mutuo, non hanno questa garanzia relativa alla perdita del posto di lavoro. Qual è l'assicurazione? intervengono normalmente in caso di morte o in caso di infortuni che provocano poi grave disabilità. Certo. Questa quindi è una polizza poche, ulteriore, quindi quella che ha fatto. Esatto, lui. Sono poche le banche che hanno una copertura così estesa e soprattutto probabilmente lo facevano qualche anno fa, adesso è un po' più difficile. Ah, beh, certo, con un mercato del lavoro così in difficoltà. Chi è invece che ha paura di andare in aereo? Adriano, che ci chiama da Milano all'800240024. Facciamo anche un po' di rima. Buongiorno Adriano. Buongiorno, buongiorno, grazie per venire avanti. Ci racconti Adriano? Sì, io ho paura dell'aereo, sono andato qualche volta in aereo. La paura non è di tipo claustrofobico, l'ho preciso, è semplicemente paura del mezzo, paura che possa verificarsi un incidente al quale difficilmente come dire ci si possa sottrarre, insomma. Quindi non so se si possa definire di tipo ansioso, mi rendo conto che è una paura abbastanza anacronistica ma ancora molto diffusa. Adriano, non ci sono paure anacronistiche, professor Perna, vero? Paure anacronistiche è più difficile. In questo caso qui sono d'accordo sul concetto di ansia. È chiaro che se io di base sono uno, per esempio, molto ansioso, quindi gioco sempre un po' in difesa, ogni volta che c'è un possibile rischio io lo amplifico. Purtroppo, teoricamente, come sappiamo, il rischio che un aereo cada esiste, ma è anche vero che se siamo informati bene è molto più facile essere travolti da una macchina per strada piuttosto che finire un aereo cada. Ma questo non basta, perché l'idea di essere in aria in qualche maniera senza poter di fatto scappare risulta essere un elemento forte. Oggi esistono delle tecniche anche di realtà virtuale a disposizione agli aerei. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è che possiamo fare le prove sugli aerei facilmente, però esistono proprio delle cabine in cui viene mimato l'ambiente dell'aereo per aiutare la persona ad adattarsi meglio. Però è anche vero che se la mia paura è che l'aereo cada, e se è una paura molto forte, bisogna che qualcuno agisca sul mio senso del pericolo di fondo. Quindi il famoso discorso che la paura nasconde poi dietro un altro problema, che probabilmente è l'ansia. Insomma, bisogna, quando la paura inizia a essere limitante, perché è vero che Adriano può prendere il treno al posto dell'aereo, però gli viene preclusa, no? Una... Se volesse andare ad Oslo, magari se volesse andare ad esempio a vedere il Sydney. O le Olimpiadi, il grattacielo più alto del mondo, come farebbe? Tra poco ne parliamo. Ma professore, io volevo proprio invitare gli ascoltatori che si ritrovano in questa situazione, cioè a confrontarsi con una paura, anche con i segnali fisici di questa paura, di farsi dare una mano. Molti di loro ci stanno scrivendo, ad esempio Alessandra mi ha scritto: ho vinto gli attacchi di panico grazie a una fantastica psicoterapia, oggi conosco meglio me stessa e i miei problemi, ogni tanto l'attacco ritorna ma io ormai lo so affrontare. Un altro ascoltatore, Davide, mi parla della terapia di gruppo all'ospedale Borgo Roma di Verona, problema degli attacchi di panico risolto senza farmaci, hanno spiegato il processo di come si forma e o di come controllarli. Insomma, tante persone che sono fatte dare una mano non hanno avuto paura di chiedere, non hanno avuto paura di farsi dare proprio un aiuto concreto e hanno superato la loro paura. Bisogna assolutamente affrontarla. Oggi come oggi, per il problema degli attacchi di panico, esistono terapie farmacologiche, psicoterapie cognitivo-comportamentali, che sono i due strumenti veramente efficaci. Poi ovviamente dipende da caso a caso. Laddove la fobia e la paura è molto più forte, la parte comportamentale può essere importante. Laddove gli attacchi di panico sono molto più presenti, potrebbe essere utile quella farmacologica. Però è importante chiedere aiuto. Cioè, non accettate una vita limitata. Già abbiamo mille problemi. Se poi dobbiamo essere bloccati da delle paure assurde o esagerate, credo che sia uno spreco. Anche perché credo che di vita ne abbiamo una soltanto. Quindi questa è una cosa che dico sempre, soprattutto perché lo psichiatra vi dà un consiglio, questo vale anche per lo psicoterapeuta, non vi obbliga, per cui voi andate a chiedere un consiglio, poi siete voi che decidete che cosa fare e cosa seguire. Quindi credo che un consiglio esperto sia utile. Lo facciamo quando chiediamo un mutuo, lo facciamo quando chiediamo all'idraulico qualcosa, lo chiediamo al supermercato, chiediamolo anche al medico. Due ascoltatori, prima di salutarci, devono essere telegrafici perché chiudiamo tra un minuto e mezzo. Michele da Milano, vediamo un po' se riesce ad aggiudicarsi oggi il nostro quiz. Michele? Salve, buongiorno a tutti. Rapidissimo, grazie. La risposta, secondo me, è il grattacielo più alto del mondo, è il grattacielo Khalifa Tower di Dubai. Molto bene. Rubi Khalifa. Mm. Ce ne sono due in Cina che stanno in costruzione, esatto, ma attualmente che... sembra che sia Dubai quella più alta. Quale vuole, il libro di cuore o il libro di denari? Assolutamente di cuori, senza dubbio. Fate un po' così. E allora... Con dedica, Michele, grazie. Rapidissimo, Vincenzo da Milano, se ce la fa, buongiorno. Io pensavo anch'io quello che ha pensato Michele, quindi non so come... Sì. Ha paura di due cose. Di che cosa, Vincenzo? Io ho paura tanto dei serpenti. Dei serpenti e delle banche. Allora, è più facile incontrare una banca che un serpente. Analizzami. Solo per concludere, i mutui del plafond casa. È già possibile chiederli da domattina? No, assolutamente. Non sappiamo quando sarà effettivamente operativo il tutto, per cui ci auguriamo che Abi dia delle indicazioni al più presto. Certo, una famiglia ci scrive: un papà, nucleo familiare con un bambino piccolo, posso chiederlo? Nucleo familiare con bambino piccolo, no, a meno che non sia una coppia giovane, 35 uno e 40 massimo l'altro. Benissimo, oppure famiglie numerose, esatto. Tre figli, il limite, Nicoletta. Quindi tu non puoi chiederlo. No, io non lo posso chiedere, ma io torno domani, voce permettendo, senza Deborina, che ritornerà lunedì. Buona giornata a tutti. Grazie.